numero 10? Cicco 10, c'è qualcuno d'accordo? C'è qualcuno su 10? Accidenti, ma tutti in FM siete oggi, c'è qualcuno su 10? Gianfranco, ci sei Gianfranco, ci sei? Attento Gianfranco. Natalie, Abisese. Marco, ma tutti morti siete stasera. Andrea? Sì, avanti. Sono io, sempre io, Claudio Spaliero. Ah, scusate, no, questo altoparlante non mi sono abituato ancora, sto usando un altro altoparlante. Come sto andando? Bene, sempre bene, te l'ho già detto, ottimo. Il mio segnale è buono. 9 più 30, sì. 9 più 30 con 30 watt. Nel Bongo Daisy 9 più 30, nel Bongo 50 9 più 30. Non cambia più di tanto, per salvare devi mettere la meno 100, se vuoi che cambi da 9 più 30. Ah, così è. Vabbè. No, lasciamo la 30 watt, già va bene. Standa, sei una bomba, cosa cazzo vuoi dire? La radio è buona, la mia sempre, no? Sta benissimo, anche se normalmente ti ascolto con l'altro altoparlante, comunque qua sei perfetto con questo altoparlante. Già va bene, KK. Ehi, lo vedi nessuno? No, non c'è nessuno. Aspetta che cambia, roba che passo allo Iaiso a vedere come mi senti. Che ho provato a spostare le masse, però secondo me non hanno cambiato niente. Prova. Oh, Robè, guarda a vedere se è cambiato qualcosa di modulazione. Sì, è più cupa questa qua. Più cupa? Sempre 60, Robè, sempre 60. Oh, vabbè, cacchio qua, non posso fare confronto perché adesso ho messo l'altro altoparlante. Cioè, dovresti fare, perché prima ti stavo ascoltando con quello piccolino. Questo è quello, vabbè, e non ci sono reso conto sbagliato, perché prima ti stavo ascoltando con l'altro altoparlante. Io adesso ho cambiato radio, non so se te ne sei accorto, se è cambiato qualcosa. Prova, se vuoi fare, fammi sentire così e poi rimetti l'altra radio e così vedo cosa succede. Mi devo cambiare il cavetto, già lo sai, c'è uno il capo, l'altro gli AIS. No, ma per coso tuo, senti differenza dalle altre volte che mi hai sentito con lo Iaiso? No, assolutamente. Allora, la radio è bellissima, però prima ti stavo ascoltando, l'altra radio ti stavo ascoltando con l'altro parlante piccolo, il P23, SP23, adesso ti sto ascoltando con l'SP940 ed è molto più naturale, nel senso c'ha dei bassi più belli, la radio è bellissima, però non ho fatto il confronto di livello confronto all'altra. No, vabbè, lascia perdere, no? Che livelli che controlli devi fare? Quello è il K, non c'è niente da fare. Con l'MC60 suo, questo è lo Iaiso con l'MC60 con l'adattatore, ok? Siccome mi avevi detto che la radio non so com'era, volevo sapere se notavi differenza, cioè se va bene, se è alta, se è bassa, se è troppo bassa. Mi sembra un po' più bassa dell'altra. Non fare i paragoni con l'altra, non esiste. Ti sto facendo una domanda, la radio va bene rispetto a com'era prima, non com'era prima il K? Questa radio l'abbiamo provata noi una settimana fa e praticamente usciva bassa di modulazione. Adesso ho invertito le masse, ok, col processore inserito e tutto. Secondo te va meglio di prima? Io ti ascolto benissimo qua, non posso dire niente rispetto a prima, ma che la prima ti ascoltavo, quando mi hai fatto sentire un'altra volta io ti ascoltavo bene, adesso ti ascolto benissimo. È molto più bassa rispetto all'altra come tonalità, però è sempre amplificata, va bene. Assolutamente, va benissimo, bella radio, quell'altra è più piena, più da combattimento, però la radio è perfetta, la tua voce è naturale, fra. Non so se puoi salire ancora il mic gain, lo puoi sollevare il mic gain? No, è al massimo, e quando inserisco, guarda, quando inserisco la preamplificazione dell'MC60, che cosa fa? Devo tenerlo senza preamplificazione, quindi io sto andando col microfono normale e processore inserito, hai capito? Non sto amplificando il 60, me la toglie l'amplificazione, è quello che io non capisco. Sicuramente se togli l'amplificazione mi sei toccato dietro, ma così intendi, proprio ti sento basso ma così ti ascolto, non sei fortissimo, ti ripeto, però ti ascolto benissimo. La radio perché non sta amplificando, il microfono normale, c'è il microfono normale col processore inserito, capito? È lì il problema che io voglio far spiegare a quella persona là, perché io non riesco a capire perché quando se su questo cavetto Iaiso è adattato o Iaiso Kenwood, se io uso un altro Iaiso che adesso non ho più, andava benissimo, amplificava come l'MC60 sul K, questo invece invece se metto l'amplificazione me la toglie la radio, me la toglie completamente, capito? Non so cosa è successo, Fra, qualche cosa c'è, perché anche io non ho fatto quel discorso là. Secondo me c'è quel filo di massa invertito, come mi ha detto Fabrizio, perché la radio, la Luna, se ti ricordi quando abbiamo provato, le altre radio funzionano perfettamente, attacchiamo di lì e non va. Ascolta, il segnale com'è? Uguale all'altro, sempre 9.30? Sì, 9.30, forse l'altro un pelozzino di più c'ha, ma poco, siamo lì mica, 9.30, l'altro con i picchi arrivava forse un po' di più. Vabbè, questo forse c'è meno potenza rispetto all'altro. Vabbè. Il problema è quello, questa radio è da rivedere. Questa storia del coso, dell'attacco microfonico, perché è impossibile. Questo connettore è fatto apposta, è spiralato, nuovo, apposta, fatto fare per usare i Kenwood microfoni, Kenwood con le radio Yaesu, e io l'ho sempre usato e andava benissimo. Con questa non ne tolgo più. Ma prova a telefonare a quello là, ma le istruzioni, guardato, ti ho mandato le istruzioni dove c'è scritto la posizione. Ho guardato, ma non ne tolgo più. Non ne tolgo più, vieni a stare lì a dirti che sono un artista, non ha divulgato più. Quindi c'è qualche problema di fondo che bisogna risolvere diversamente. Sicuramente lo può risolvere uno che ne capisce più di me. Io non mi occupo bene. Non so cosa dirti. E mentre col microfono da palmo, hai provato con un microfono da palmo a vedere la differenza? Non ho un microfono da palmo, Roberto, come rincoglionendo ti stai? Non te ne è rimasto neanche uno così, per sbaglio. Ma ti stai rincoglionendo davvero? Mi stai preoccupando tu? Se ne abbiamo parlato anche stamattina, ne abbiamo parlato ieri. È l'unica cosa che non ho di questa radio, il microfono suo, da palmo originale. Oppure che sia non originale, ma che sia da palmo per fare prove. Ma non cambia niente secondo me, perché l'MC60 adesso sta andando a 7 preamplificazioni, quindi è un microfono normalissimo. Col processore inserito, guarda, se io ti stacco il processore, tu non mi senti più. Guarda, 1, 2, 3, 4, mi senti? Non è cambiato niente, non parlavo di microfono di quella radio, se c'avevo un altro microfono di altre radio, di Kenwood, un palmare di Kenwood per fare la prova. Ma non si può fare, perché questo spiralato è maschio e maschio, non è maschio e femmina. Questo è maschio e maschio, lo sai, no, che è maschio e maschio. Se l'MC60 ha lo stesso attacco della radio, come fai a fare il coso? No, ho sbagliato, stavo inserendo il preamplificatore d'antenna. Guarda, questo è col processore inserito, così è senza processore, la senti la differenza, senza processore, col processore. Sì che si sente, ma non è spaventosa come il Kenwood, lo fa di più, lo stacco col processore e senza, qua si abbassa un pochettino senza processore, ma l'impedenza del microfono, hai provato a spostarla per curiosità? Provato, no, ancora peggio. Luca, non so cosa dirti, comunque non voglio dire niente, la radio sta uscendo benissimo, non spinge forte come l'altra, considerando tu c'hai tutto il micchino e una manetta. Allora, rispetto al K ce l'ho a 2, il K 1.5, quindi c'è un abisso, no? Sono due radio completamente diverse, però ti ripeto, se l'MC60 andasse in amplificazione, non lo so cosa succede, perché io quando usavo il 60 col 920 della Yaesu, che adesso non ho più, l'avevo venduto, la radio era uguale al K, precisa e identica. Non so cosa dirti, io ti ascolto bene, però sicuramente non c'è la stessa prestazione di quell'altro, del K, però non posso dirti niente per fare il coso. Se vuoi ti posso vedere quanto è il tuo segnale, quanti decibel, non sei nel rosso, sei rispetto all'altro che arrivi a 12, qua arrivi a 6. Fatti un gondolo, mi dai. Non lo so, perché ti ripeto, io sto usando un microfono da tavolo non amplificato, non sta amplificando, è chiusa l'amplificazione. Se io la apro, mi toglie la radio, la modulazione. C'è qualche problema nel connettore della radio. Ma va, che chiedere a quell'amico che l'ha fatta, l'amico tuo, volevo dirti di piazza. Se no, Mario, è il tipo di radio che non va così per questione di alimentazione, non so cosa dirti, che Mario, la tensione che ti dà rispetto al keyboard è diversa, io non lo so. Non lo so neanche io, è veramente un mistero della fede. E non posso usare manco l'MC50 perché l'MC50 c'ha il connettore a 8 che va attaccato alla radio, quello invece del microfono è a 4, capito? Sempre maschio e maschio, e quindi non posso attaccarlo, non c'ho adattatore per poter fare l'operazione, per usare proprio il microfono normale, ma così come lo sto usando io il 60, è normale perché non è inserita la preamplificazione, c'è solo il processore inserito, capito? Quindi è come che stai usando il microfono normale. Vabbè, secondo me c'è magari qualche disadattamento di qualcosa, però noi possiamo fare una cosa, se io gli do la radio a quella persona che sei tu, sempre che ci abbia tempo di farlo, gli diamo un altro microfono, buscamo un microfono, dico fammelo funzionare e fa male, tanto a chi la deve prendere non gliela fu di nuda, chi deve metterci le MC60, dico mi, questo è il microfono abbinato a quella radio lì. Ma deve funzionare anche col microfono preamplificato, perché la prova che voglio fare io è far funzionare questo cavetto che è originale, fatto originale, non è fatto un CP2, è comprato dalla CIE Song, è fatta la connessione all'inverso. Kenwood Yaesu, ok? Kenwood Yaesu, spiralato, uguale, lo stacchi dal 60 e attacchi, attacchi quello Kenwood e metti quello dello Yaesu, quindi non è stato fatta nessuna, perché ti ripeto io lo usavo, a me interessa che funzioni anche col microfono da tavolo, perché deve funzionare, non mettergli un microfono normale e farlo funzionare con un microfono normale, no, deve funzionare col normale e con quello da tavolo. Con l'attacco però modificato, con l'adattatore. Ma questo non è un adattatore, è un cavetto originale, non è un adattatore. Questo è un cavetto che ha la radio, il connettore della radio è Yaesu, il connettore che vale MC60 è Kenwood, capito? Poi ne ho un altro uguale, connettore Yaesu, sempre che va attaccato alla radio, attacco al microfono ICOM, ma microfono ICOM non ne ho, però se non funziona il 60 con questa radio, non funziona nessun altro microfono da tavolo. Non so cosa dite, è che quelle persone che abbiamo chiesto l'altro giorno, che ce l'hanno, non te le prestano, solo hanno detto fammi la cortesia, prestami l'MD1, ma non te le prestano. E già chiamo a Stefano domani che l'MD1 mi pare che ce l'abbia, buh. No, non l'MD1, l'MD100, l'MD100, devo trovare uno che ha l'MD100, mi pare ce l'ha Stefano, poi chi ce l'ha l'MD100, non lo so, vabbè, adesso mi metto in moto, io voglio capire se il microfono da tavolo funziona in amplificazione, perché se non funziona in amplificazione, allora c'è un problema di fondo nel connettore della radio, hanno fatto qualche modifica, ma io prima di dare la radio a controllare, voglio rendermi conto io, capito? Perché questo connettore che io ho è stato fatto apposta per usare l'MC60 con lo Yaesu, capito? E l'ho sempre usato, funzionava. Ma ci credo, il problema è la radio, la connessione della radio, per quello ti sto dicendo, visto che me l'ha fatta Marco la stessa prova a casa sua con un microfono mio, gli ho dato il microfono mio, ha detto lo vedi con l'adattatore, me l'ha fatto vedere il video. Il problema è su quella radio lì, su quello Yaesu. Bisogna chiedere a quell'amico tuo, come si chiamava, come lo ammetto, se ha toccato la disposizione dei cavi, anziché magari toccare proprio lo spinotto dove attacchi il microfono, se magari collegando le mazzette, magari ha spostato una massa, cosa ne sai? Non lo so, ma non penso comunque, non lo so, vabbè. Comunque non è un problema, dai. Adesso già è qua, poi vediamo cosa fare, se quella persona là magari ci procura anche a provare il microfono originale, io mi rendo conto, se il microfono originale funziona bene, c'è un problema di connessione sulla radio per quanto riguarda l'adattatore. Allora mi metto nel segnalatore, gli do il microfono, sto pensando di dargli quel microfono alla Proxel e dico, prova a provare con i tuoi microfoni, lui ce l'ha la radio originale, moderna, dico prenditela, attacca un microfono tuo e vedi se le connessioni sono giuste, se non me le fai uguali al tuo, gli posso dire così, claro. Ma non ne ha bisogno lui di radio, ma stai scherzando, tu le dai un microfono, le compri il connettore, a 8 dici fammi l'attacco Jesu, lui ce li ha tutti gli schermi per fare gli attacchi, non imbaglia uno, cosa devi dare la radio, a fare che cosa? Devi dare un microfono con un connettore e lui te lo fa uguale, preciso Jesu, e io gli ho sempre dato i microfoni, mica gli ho dato le radio, no? Ma ti pare a uno del genere, professionista come le dai le radio per fare la connessione? Lui c'ha gli schemi, a parte il fatto che i microfoni Jesu lui ce li ha, quindi basta che lo faccia uguale, ma poi non ne ha bisogno lui, capito, di radio. Ho capito, ma se il problema c'è la radio, lui vuole capire, deve capire dove è il filo invertito, perché a me me l'ha fatto Marco con la sua radio, l'ha preso, lui sapeva lo schema e funziona, ma ha detto ti attacca, l'ha detto guarda che non funziona, come non funziona? Allora si è preso il microfono, con quell'adattatore suo, l'ha portato a casa sua e funziona, su quella radio non funziona, vuol dire che il problema è sulla radio, non sul microfono e neanche sulla connessione, perché la connessione che ho io era sullo Yaesu, bisogna farsi fare, vedere lo spinotto dove attacca il microfono sulla radio, se le connessioni sono giuste, perché magari quando è stata riparata può aver staccato qualche filo e ha invertito una massa con un altro e non arriva la tensione, secondo me il problema è quello, è qualche massa, come mi ha detto quella persona che abbiamo nominato lui, che è qualche filo di massa ha invertito. Può darsi pure, non lo so, può darsi pure, vabbè, comunque. Vediamo, dai, non è così importante, già l'importante è che funzioni la radio, poi si vedrà nel momento in cui non pensare a perderci tempo e a rompere le palle. Una volta fatta quell'operazione gira bene lui, gira plastica, si arrivi fa. Va bene, ok, comunque l'intensità microfonica è buona, giusto? È buona, non è all'altezza del 430, però è buona. Assolutamente, ma ti sei avvicinato un pochettino, adesso sei arrivato un po' più forte. Sì, se mi avvicino così è fortissima, se parlo così è fortissima, se invece tengo la distanza che tengo col K, che è questa, mi senti più basso. Assolutamente, infatti è quella la differenza, il K con un filo di voce a parità di distanza spinge di più, adesso sei arrivato a 8 dB e col K arrivi quasi a 12, 4 dB di differenza ci sono. Se mi avvicino così vedi che non grido, che sono a un palmo dal microfono, io non ho mai parlato con i MC60 a questi livelli, la modulazione insomma non è spinta ma comunque diciamo che va bene. Assolutamente, molto chiara e pulita, la tua voce è molto corposa, ricca di bassi, non posso dire niente, però l'altra è un'altra musica, però l'altra spinge molto molto di più, non c'è confronto. Che non ci sia confronto, non ci sono dubbi, KK. Io ho sempre detto che le migliori radio in 27 sono i vintage della Kenwood. Questi vintage Jesu, se sono abbinati bene e se sono a posto funzionano bene, perché io li ho sempre avuti, però non hanno la forza, l'intensità, la preamplificazione che può avere un microfono della Kenwood, capito? Ma non lo dico solo io, lo dicono tutti quelli che hanno l'esperienza soprattutto per radio. Fa una cosa adesso, memorizza questo livello microfonico, così mi regoli il volume dell'altra grande e mi dici fammela più o meno uguale come livello di microfono, memorizza questa parlata che ho io adesso come intensità, non dico come tipo di modulazione perché sono due radio diverse, così mi dici solleva un pochettino, ok? Ok, vai tranquillo, vediamo un po' cosa salta fuori, dai. Allora questa è l'altra, come mi ascolti? 1, 2, 3 prova radio. Sembra che stia usando un microfono normale. Troppo basso sono. Sì. Allora guarda un po', ho alzato un pochettino, troppo alto sono. No, non è cambiato niente. Come non è cambiato niente? È possibile. Non è cambiato niente, ma il processore si è inizio. Sì, però aspetta un attimino, guarda se cambia adesso, 1, 2, 3. Beh, adesso sì, adesso va bene. Non sapevo che c'era il processore regolabile questo. Posso salire anche da troppo alta? No, no, sali, sali. Se la vuoi alla pari dell'altra devi salire. 1, 2, 3, prova radio, come mi ascolti? Ecco, così c'è la pari dell'altra. Lo stesso livello, aspetta, se no magari che non sia troppo alta, va bene così. No, no, puoi metterla anche com'era. Come com'era? Devo divenire o che cosa? Devi lasciarla come ti ho detto io, solleva ancora un pelino. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova radio. Ecco, lasciala stare così, sia a livello dell'altra, uguali. Come tonalità molto diversa. No, no, assolutamente, va bene. Il segnale qualcosa è cambiato? Sempre 9 più 30, sì. Ok, dai, allora rimetto l'altra adesso, va bene così e non tocca il muro. Questo è quello che conosco io, la radio. È quella grande questa, no, no, non l'ultima, l'altra, quella grossa, quella grande grande. Ecco, questa così, lasciala stare così. Eia, poi adesso mi fai il confronto con l'altra, adesso ti riattacco un'altra, l'ultima. L'ultima, quella che ho capito. Questa è l'ultima, com'è? Molto diversa come segnale di modulazione. È più bassa come intensità microfonica, il processore inserito. Sì, si è inserito il processore, però qua si possono fare regolazioni microfoniche, bisogna entrare nel menu, questo è così naturale senza tocca nulla. Ho capito, allora schiacci function e poi schiacci mic, nel display ti appare il mic gain, mi dici a quanto ce l'hai, se ce l'hai a 50 o se ce l'hai a 100. No, perché c'è un tasto qua che c'è scritto mic, c'è scritto, aspetta un attimo. Roberto, segui a me, cazzo, segui a me, no, no, non fare in testa tua, segui a me, schiacci function, c'è scritto function, function, ti si accende la luce e poi c'è scritto mic, e schiacci mic, sul display ti appare a quanto hai il microfono. E lì è che sta funzione function, non sto cercando, ah, eccola qua, sì, ecco. Function prima, poi mic. Mic è a 50. Oh, perfetto, portalo a 100, gira la rotellina. Esatto, gira la rotellina, non succede niente, cambia la frequenza, bisogna entrare su qualche altra cosa. Gira il VFO! Se giro il VFO si sposta la frequenza perché non sta intervenendo il microfono, devo capire come faccio a intervenire. Come fai a intervenire? Su più e meno, guarda che c'hai il quadrettino dove c'è più e meno. Infatti sto guardando lì, aspetta, sono leggermente spostato. Allora adesso io ho il mic a 50, c'è il, ci sono delle freccette, allora vediamo funzione, microfono. Questo è proprio di incasini, funzion mic, quando c'è il display, leggi nel display, ti dà l'intensità mic 50, ok, c'hai le freccette sotto, più e meno, vai più e aumenti, sino a quando te lo dico io. Aspetta un attimino, se si sposta le freccette, aspetta un attimo. Guarda che lo puoi fare anche parlandomi. No, non si sposta perché cambia la frequenza, naturalmente bisogna entrare in qualche sottomenu, aspetta un attimo. Cosa? Che non si sposta, cambia la frequenza, aspetta che è troppo sensibile questo cacchio di manopolo. Allora, devo entrare in funzione, sono, cioè, mi appare carrier. Tutto con le funzioni, quando tu fai funzion, puoi fare car, dove c'è scritto power, power, car, mic, proc, tutto col function funziona. Allora, c'è proc a 50, Sia il proc che il mic sono a 50 e così devi lasciare. Non bisogna sollevarlo, non è troppo basso. No, non è troppo basso, però se lo vuoi sollevare sai come si solleva, te lo sto dicendo. Ma non me lo fa, ho provato. Guarda che ci sono dei pomelli piccolini sulla destra, dove c'è sub, eccetera, eccetera, quei pomellini lì. Uno è quello della frequenza sub, l'altro che cos'è? Ma c'è scritto sub e col manopolone e vediamo se si solleva, niente sta succedendo, tutto rimane uguale. Tu devi guardare, non devi chiedere a me, no, devi guardare nel display, cazzo, robè, se ti ho detto, quando c'è scritto sul display mic 50, ok, tu tocchi una di quelle manopoline, lui deve camminare, deve aumentare. Lo sto provando ma non si muove, è fisso. Sto guardando anche la LC, non rimane sempre invariato qua. E se a vedere se c'è qualche altra funzione. Eccolo qua, eccolo qua. Guarda se sta sollevando. Solleva, mentre stai parlando solleva. Allora, adesso sono 79, 80, 89, 90. L'ho messo a 100 al massimo adesso. Adesso se vengo a laterale è un casino. Sicuramente. Ma migliore migliorato in AM? No, non ha migliorato niente. Allora, aspetta un attimino, lo rimetto come era prima, lo metto a 50 e poi faccio un'altra prova, aspetta a vedere cosa succede. Adesso è come era prima, 5. Adesso sto provando il proccio, guarda cosa succede, 1, 2, 3 prova radio, 1, 2, 3 prova radio, sto aumentando? No. Non aumenta nulla, adesso l'ho messa al massimo, 1, 2, 3 prova radio. No, non aumenta niente, rimettilo come era perché in AM le funzioni sono quelle. No, non ha nessun accesso in AM. Capito? In AM esce così, punto, così esce, è regolata così, mentre sicuramente se tu aumenti vai a sfasciarti la banda laterale e l'FM, rimettilo a 50-50. E allora lasciamo fare così, perché la LC è al 25% qua. Allora se la LC è al 25% stai andando di lusso, la radio va bene, non è spinta come l'altra ma va bene. Ma è chiara come modulazione? E già lo credo che è chiara. No, aspetta, scusa, non volevo dire chiara. Cosa cambia dall'altra? Non parliamo di forza, di combattimento. Come tu conosci la mia voce dal vivo, rispetto all'altra, cosa cambia? È più naturale questa o l'altra? Più naturale questa, più presente anche, bellissima. Solo quella là è più spinta. È la stessa storia tra questo e il K, uguale. Sì, quindi già va bene. Di cosa ne sta dando? Con i picchi arriva una trentina, vabbè ce ne ha 25, ne arriva, con i picchi arriverà 40, 35. E quelli sono i fatti, non c'è da fare, sono quelli. Lasciala così, non è Roberto, che quella è fatta così, quella è una radio per fare altro. Capito? Una radio per fare altro, però va benissimo anche in AM, alla grande. Non hai la potenza che hai col 440, però è molto bella. Sì, uguale al 940, amico. Sì, va bene, non c'è problema. Tutto il resto del segnale quasi non è cambiato niente, perché tanto siamo vicini, non cambia più di niente. No, no, segnale 930 con una, 930 con l'altra, arrivi sempre 930. E infatti per salire devi avere qualche centinaio minimo, 150, per notare la differenza, non ci sono problemi. Comunque va bene così. E tu cosa sei, il 43 c'hai adesso? No, sempre lo Yaesu. Ha cambiato il numero meglio di prima, cambiato la tonalità. Cosa in gioco? Non ho toccato niente io, no Roberto, io non ho toccato niente. Io sono sempre con l'MC60 e lo Yaesu, già la conosci, non ti dico che marca. Ma quello può andarci in banda laterale, non l'abbiamo provato in banda laterale quello? No, non l'abbiamo provato, ma non mi piace in banda laterale, non mi piace il bannù. E in FM lo puoi provare? In FM sì. Provalo in FM un attimo. Anche questo spara a piena potenza, mi senti bene in FM? Così sono in FM. Ci sei, Clark? Aspetta, riprovo. Metto l'amplificazione e metto lì la modulazione. Cosa volete dire? Non lo so neanche io. Vabbè, comunque. Adesso vediamo, poi il primo che si affaccia e mi adesso le darò. E poi già ne parliamo a voce diretta, adesso vediamo. E vabbè. Io l'ho presa così e così è. Quindi va bene. Ok, comunque dai, l'importante è che ci sentiamo, poi gira Biglielucci, più forte, più bassa, non me la fotti nulla. Vabbè, diciamo, l'hai detto tu, ci sono radio e radio, radio che per fare certi tipi di cose e radio per fare altri tipi di cose, che è di meglio sicuramente di quella in AM, però non posso dire che è una cagata, ci sente benissimo, molto chiara, pulita, e la tua voce è naturale, l'altra però con l'altro tipo di radio è più adatta per la AM. Lo so. Allora, io mi sto ascoltando, ora, io mi sto ascoltando, vabbè, non è così male, dai, non è così male, cazzo, vabbè, cosa vuole, niente, non ho compreso, comunque, gli ASUI come in AM lavorano così, il KK, non c'è niente da fare. Ma cosa hai fatto? Adesso sei diventato di colpo molto più forte. Come, così? Adesso sono più forte così. È cambiato dal giorno alla notte, cos'è toccato? Nulla, mi devo avvicinare all'MC60. Allora, questa è una posizione. Questa è l'altra posizione, vedi la differenza? Posizione numero uno, posizione numero due, vedi la differenza che c'è? Cazzo, ma ti stai avvicinando proprio con la bocca attaccata al microfono? Assolutamente no, un palmo. Questo è un palmo dall'MC60 e questo è 10 cm come modulo sempre, 10-15 cm come modulo sempre col K. No, quando si ti avvicini a un palmo è una bomba, fortissima, cambia da giorno alla notte. Lo so, Robert, però io non sono abituato a stare così sopra il microfono, capito? A me piace modulare molto rilassato, abituato al K dopo 20 anni, 30 anni che lo uso, è così. Se questo devo modulare in questa posizione, vuol dire modulo in questa posizione. No, adesso sinceramente sembravi col K che avessi cambiato la radio. No, sono sempre con lo Yaesu, però sono praticamente vicino, un palmo con l'MC60. Mentre così è come modulo col K, vedi la differenza? Così modulo col K e così devo modulare con lo Yaesu. E allora vuol dire, se vuoi romantere l'intensità del K ti devi avvicinare minimo 15 cm in più. Lo so, questo l'ho notato anche in cuffie, Roberto. Però io sono un po' duro di comprendorio, devo capire come mai è così. Deve andare in posizione in l'MC60, deve andare in posizione in. Adesso io mi controllo il cavetto e prima di toccare la radio provo a invertire le masse del cavetto, che mi viene meglio, capito? E vedere un po' com'è la situazione. Ok, che ora ci sono fatte, certo, le 9:20, mi sa che mandano a mangiare, non te la guardi la partita? Non me la perdo, assolutamente, me la devo guardare perché voglio vedere qual è innanzitutto l'avversario dell'Italia, e poi voglio avere il gioco sia di una che dell'altra, per poi fare i paragoni come ho fatto con la Spagna, perché a mio fratello ho detto, guarda, la Spagna sarà forte, però che non abbia vinto 11 contro 10 contro la Svizzera, non è più la Spagna di una volta. Quando siamo andati ai supplementari gli ho detto, guarda, se andiamo ai rigori, la Spagna rigoristi non ne ha, vince l'Italia, e così è successo. Perciò voglio vedere stanotte cosa succede tra Inghilterra e Danimarca. Io temo più l'Inghilterra e spero che non troviamo l'Inghilterra, perché con la Danimarca li possiamo mettere in mezzo, perché hanno già dato tutto quelli e più di così non ve la fate. L'Inghilterra è tosta perché è molto atletica, è molto veloce e magari tecnicamente siamo alla grande superiore di noi, però quelli lanciano palle lunghe e fisicamente ci sovrastano, sono delle montagne. Lo so, poi c'è quell'inglese fortissimo che c'hanno loro. Adesso non mi ricordo il nome, che è anche grandetto di età. Comunque, vediamo un po', dai. Ok, Robè, ti ringrazio dei controlli, lasciamo tutto così. Quindi questa è la posizione dello Yaesu e questa è la posizione del K. Questa è la posizione dello Yaesu e quindi devo modulare così. Va bene, ci aggiorniamo. Ciao, buona cena, buon tutto, al limite ci vediamo domani. Ciao. Yeah, ciao, ciao. 10, canale 10, c'è qualcuno?